Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Il fatto che lui sia venuto sicuramente non tiene all'altra, perché sennò non sarebbe più a farsi vedere anche da lei. Ma lo so, ma questo lo so, il gesto intanto è stato eclatante. Poi io, conoscendo anche il suo carattere, il suo modo di fare, ho detto no, non può essere. Però conoscendo che lui è timido, certe cose non le fa. Alberto, tu le vuoi bene, la ami, la vuoi sposare? Io devo morire. La vuoi sposare? Dai! Ma infatti io gli voglio chiedere scusa, perché sono stato uno scioccolo, e lo ammetto, perché io gli voglio bene un casino, ecco, sia a lei che sia suo padre e sua madre. Cosa garantisci per il futuro? No, io che garantisco? Bugia. Io che sono con lei felicissimo e la mia vita... Dedico questa trasmissione a quelli che dicono: io la televisione non ce l'ho nemmeno, io non guardo la televisione, siamo pazzi. Leggo soltanto dei buoni libri, la sera sorseggio il mio vino guardando la città addormentata dalla mia terrazza, io parlo con i miei amici, amo la conversazione, se devo guardare la televisione piuttosto vado a teatro. Ecco, questa è la televisione, questo è il nutrimento per la maggior parte dell'umanità, che in realtà non ha la terrazza, non ha il vino da centellinare, non ha gli amici con cui conversare. Ma perché non ce li ha? Perché non li vuole, perché fa un'altra scelta. Il tempo futile è un tempo da scegliere, per molti è un tempo importante, è un tempo che comunque gratuitamente ti arriva dentro casa attraverso la televisione. Chi fa questo tipo di televisione? Questo era un programma di Maria De Filippi, il programma più detestato dal benpensantismo generale. Perché? Perché è un programma che sviscera i sentimenti, che porta i casi umani in televisione. Beh, io ho visto tutto il nascere del casumanismo in televisione, e la televisione è cambiata radicalmente da quando ha portato il caso umano in televisione. Improvvisamente la televisione ha cominciato a rappresentare le persone che la guardavano, e questo trovo che sia un fatto fondamentale. Quando anche il semplice utente ha avuto un'occasione di essere rappresentato, ha cominciato a esistere. Ma esistere dove? In un mondo virtuale, un mondo irreale. Anche le terrazze sono un mondo irreale. Oggi parliamo di televisione, quella vera, quella che a voi non piace. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Allora, questa è una storia un po' particolare. Fate attenzione, normalmente il destinatario... Vabbè, vi faccio vedere una foto con la premessa che non l'ho scelta io, ed è destinatario della posta. Allora, dovete pensare che a scrivere a Matteo Salvini sono due signore, due sorelle, che fanno il mestiere più antico del mondo. Queste due sorelle hanno conosciuto Salvini quando era un ragazzo, un giovane ragazzo. Loro sostengono di averlo amato e di essere state ricambiate. Loro sostengono di amarlo ancora e di venire a C'è Posta per Te perché vogliono in qualche modo incontrarlo, non riescono più ad incontrarlo. Perché adesso lui, per mettere a tacere il tutto, vuole chiuderle nelle case chiuse. Facciamo entrare Lombi e Piemonti. Ecco, io non ho visto questo episodio di Salvini con Greggio e Iachetti vestiti da puttane. Non l'ho visto, ma è come se l'avessi visto, ne sono stato contaminato, perché ne hanno parlato tempo fa tutti i giornali. Improvvisamente è stata l'apertura della politica. Salvini va da Maria De Filippi, Greggio e Iachetti ritirano fuori una loro gag un po' âgée di qualche tempo fa e fanno le due signore scatenate. C'hanno molto, e per loro è stata una sorta di viagra di popolarità, sono ritornati molto in auge in televisione quando scoprirono che antravestì funzionavano altrettanto, e in questo caso hanno voluto fare uno scherzo a Salvini. Salvini, il grande moralizzatore, è stato a contatto con ciò che di più obbrobrioso è nella sua liturgia, è quello di avere davanti due incerte persone dall'incertezza, dal sesso, dal... via dicendo. Comunque è stato divertente. Barbara Cappi, tu nelle terrazze ci vai? Ti invitano? sì, mi invitano. Grazie, perché sei figa, perché sei attrice da De Filippi. Mi invitano, ma io non ci vado perché lavoro sempre, quasi sempre. Se non lavoro, sto con i miei figli a casa. Barbara Cappi, che oggi ospite, è quella che mi aiuterà a capire cos'è la televisione italiana, cos'è stata la televisione italiana negli ultimi 20 anni, perché negli ultimi 20 anni tu sei stata sempre dietro le quinte della televisione italiana. Assolutamente sì. È una delle autrici più presenti in tutti i programmi che hanno attraversato l'immaginario televisivo, più detestato ma allo stesso tempo più amato da quella fetta di italiani che non si pone il problema dello spessore culturale di quello che deve passare in televisione. È un'attrice TV, è sceneggiatrice, ha anche appena pubblicato un romanzo intitolato La lettera che non ti ho mai scritto, Mondadori. È un romanzo dove in copertina c'è la foto di Maria De Filippi, che però con un virgolettato, che è importante. L'ho letto e mi ha tanto emozionata, ma figurati se no, giuro, l'ha letto. Storto. L'ha letto, ma anche perché letto? Io quando ha tempo l'ho interrogata sulla questione, ma anche perché l'abbiamo in qualche modo, l'impalcatura l'abbiamo studiata insieme. Sono 9 storie già andate in onda, tra le più belle quelle che ci hanno emozionato, a me, a lei di più, e questi sono 9 pilastri, diciamo, di quello che è poi una tessitura inventata di una sarta assolutamente, perché non romanzata. c'è la sarta sì, ma questa sarta del libro, insomma, non è reale, che ha un grande segreto, ha un grande passato. E qual è il suo segreto? Non voglio sapere la fine, non fai lo spoiler. Ha una vitaccia della quale non parla con nessuno. Peraltro le sarte veramente sono così in televisione, sono degli esseri invisibili e cuciono i bottoni e fanno, no, le pence. Sanno tutti i segreti, ma sanno. Poi lei nascondono i difetti. Quando si sbraca anche il vestito loro, del personaggio, glielo racucciano, riescono, ci mettono a fare degli un elastico miracoli, dietro. Però sempre in silenzio. Ecco, poi adesso ti faccio una domanda, scusa. È ammissibile che nello staff di Maria De Filippi ci sia una portatrice di segreti enormi e non diventi personaggio dei suoi show? Credo che Maria riuscirebbe a carpire anche quelli. Ecco, se ci fosse veramente una sarta piena di segreti, l'avremmo già lì davanti al postino o dietro il paravento. Assolutamente. Quindi è l'aspetto romanzato e reale che possa esistere qualcuno che ha segreti nel raggio di mezzo chilometro da Maria De Filippi. Esattamente. Ecco, detto questo, greggio iacchetti vestiti da donna davanti a Salvini, qualcosa che è un po' passato, che però è un ritorno. In televisione non si butta via niente. Io non mai avrei pensato di rivederli vestiti da donna. Di quant'è la loro gag? Almeno di, credo di almeno 10 anni fa. Loro peraltro adorano essere Enzina e Zietta. Questo si capisce che c'è un certo piacere. Ma devo dire, in Italia non so perché, ma ho molti amici che non vedono l'ora di travestirsi con la scusa del carnevale. Poi non so se lo fanno anche. Molti lo fanno in privato, loro hanno l'occasione di farlo pubblicamente. E si trova meravigliosamente con queste tette finte che tutti gli tocchiamo e tanto non sentono niente, ma stanno così. Beh, loro hanno dei brividi capezzolari lo stesso, sai. Sì. No, ma è vero che queste protesi che gli mettono non hanno capezzoli, quindi sono veramente irreali. Quando io glieli spugno bene, gliele tocco prima di andare in scena, cioè regolarmente questa cosa, che io dico, ma manca un piccolo dettaglio, e loro dicono è il motivo per il quale noi non abbiamo il successo delle tue tette rispetto alle nostre. Ah, ecco, questa è la differenza. Ecco, proprio dicevo, averli revocati, fammi capire come nascono delle idee. Un'idea che si è conquistata le pagine dei giornali, perché naturalmente, come Renzi dopo qualche giorno che è andato ospite di Barbara D'Urso, ottima mossa. Se fosse andato da Vespa non avrebbe avuto lo stesso effetto. È certo, chiaro? È quando entri in un contesto diverso che fa scalpore, no? E allora se ti affacci in un mondo come C'è Posta per Te, se Matteo Salvini ricevi la posta a due prostitute che dicono che hanno avuto anche dei figli da te, che quindi, e tu non li hai riconosciuti, peraltro c'è anche un figlio algerino. Sono chiaramente due maschi travestiti. Ancora. Sono due maschi, anzi gli abbiamo aggiunto anche il figlio di quest'altra loro collega di Falò, che era un'algerina, e quindi aveva anche un figlio peraltro extracomunitario. E quando c'è stato il momento dell'abbraccio finale, cioè una delle due ha detto, è incredibile, in questo momento è la prima volta che vediamo Matteo Salvini che abbraccia un extracomunitario, perché era il figlio suo. Cos'è, ci vuole papà? Una mente diabolica perversa o una macchina perfetta per creare questi eventi, che poi sono eventi a vari livelli di lettura, perché l'appassionata di Maria De Filippi ci fa due risate, dice quanto sono carini, non capisce esattamente fino a fondo. In realtà su piani più raffinati qualcuno ci gode, qualcuno ci soffre, qualcuno rimane scornato. Questi sono i diversi livelli di lettura. Ma guarda, quando abbiamo pensato a questa cosa insieme appunto a Ezio e a Maria, volevamo semplicemente toccare tutti i temi che riguardano Matteo Salvini e il suo programma, insomma, e ribaltarlo dal punto di vista di chi non è d'accordo, e quindi due prostitute che hanno una serie di vicende e di vicissitudini con lui, che volevano semplicemente recriminare quello che gli è mancato. Ma in questo caso lo sa prima l'ospite quello che accadrà? No, assolutamente, in questo caso, in questo, ma in tutti i casi dei programmi della signora De Filippi è forbidden, nel senso che nemmeno noi, io autrice e Maria stessa, non incontra mai chi riceve la posta, che sia una persona normale, che sia un VIP, noi non incontriamo mai chi riceve la posta. Senti, faccio un po' di archeologia. Dimmi. La trovata del giubbotto di Fonzi, di Renzi, fu una trovata di Renzi o venne da voi autori? No, venne da Renzi. Quindi vi superò a destra? Assolutamente. Da questo punto di vista. Beh, ma lui è un uomo di televisione, nasce con Mike Buongiorno facendo non so quale programma. Vabbè, peccato e gioventù, anche no. Salvini ci è andato in televisione. Esattamente, sì. Infatti sono andata a vedermi, ho visto anche Salvini. No, lui si presentò in camerino con sua moglie e disse: io entro ad Amici, e io lavoravo anche ad Amici di Sera, mi metterei questo. E io l'ho trovato geniale, perché per lui era il massimo della trasgressione. Geniale. Era un orrendo giubbottino di pelle da camionista, in realtà era proprio... però fece... nella sua testa era Fonzi. Sì. Però devo dire, riuscì anche lì a in qualche modo a ingaggiare immediatamente quel pubblico, che non è facile, perché sono ragazzini schiamazzanti per 3 ore che vogliono sentire gente cantare. Tra l'altro loro non sapevano nemmeno chi fosse Fonzi, probabilmente. Sicuramente, perché generazionale. Figurati, roba lontana. Bisogna avere almeno 45 anni per saperlo. Assolutamente, quindi lui arrivò con questa immagine così, molto semplice però, e riuscì a parlare molto bene. Noi volevamo in ogni puntata aprire con un tema diverso e fare questa specie di richiamo di coscienza. Poi quello che poteva lasciare lasciava, e piano piano, secondo me, questo piccolo modo di fare Amici pensante e non solo cantante poteva ecco, funzionare. Ecco, però vedi, il vostro feedback privilegiato è l'ascoltatrice, che pensa che Maria sia una sorta di emanazione della Madonna, è quella che riesce a risolvere i problemi, è quella che il pomeriggio fa divertire anche vecchietti, facendoli fare delle cose che normalmente si fanno nei centri anziani. Farle in televisione vuol dire trasformare in un momento epico quello che in realtà è una situazione di risulta. Poverini vanno lì a ballare che nessuno li vuole, lo vanno a fare in televisione, diventano dei miti. Ecco, questo tipo di pubblico però come fate a rappresentarlo? Perché vedi, noi stiamo parlando di quello di cui parlano tutti i fini analisti politici, quelli che fanno i fondi su Repubblica o su Corriere della Sera, sono divertiti, ma gli altri come fate a capire in realtà qual è il loro stato d'animo e qual è il loro gradimento, al di là dei numeri di audience che non contano niente? No, ma io guarda, penso fondamentalmente che è la terrazza stessa, quello che tu dicevi, cioè ormai la televisione è casa più di quanto la casa non sia, quindi se tu... quello che trovi in giro è quello che trovi assolutamente in televisione, e questo non deve avere nessun non c'è scollo tra la realtà e quello che viene rappresentato, non c'è più. È una grande bugia che quello che viene rappresentato è in qualche modo un'evoluzione oppure è di alto contenuto. La televisione è pop nel senso proprio del appartiene al popolo, quindi io ho sempre detto la televisione in realtà come medium è un profeta e un veggente, e vede quello che non vedono gli altri, quello che la televisione vede in realtà da qualche parte c'è. Ma sì, voi non avete più casa, però te come autrice ventennale televisione, la televisione è la tua realtà. Tu vivi più dentro la televisione che fuori. Sì, infatti quando mi dicono la vedi, per me non lo dico per snobberia che non la vedo, ma perché ci lavoro talmente tanto che è difficile trovare il tempo. Diciamo che è una grande passione per quanto mi riguarda. Mi piace moltissimo, mi piace molto farla, mi piace farla con le persone intelligenti. Ho la fortuna di lavorare con delle persone che mi possono quasi insegnare tutti i giorni qualcosa, e per me è un lusso, capisci? Poi dopo parliamo degli autori televisivi tra un istante, dopo l'informazione della borsa, perché voglio capire, è un mestiere lussosissimo, divertentissimo, ma molte volte voglio capire esattamente qual è il ruolo degli autori. A tra poco. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore, in quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digital radio. JP Morgan Asset Management vi presenta Chiedimi se sono felice. Tutte le domeniche a mezzogiorno, le 12. Chiedimi se sono felice, che cosa vuol dire? Il mondo dalla prospettiva del cane, perché uno si deve chiedere se il proprio cane è felice. Quindi intervisteremo degli esperti, avremo degli ospiti, parleremo di alimentazione, psicologia, benessere del cane, la sua educazione, qualunque cosa, di telepatia. E per tutte le vostre domande andate sulla nostra pagina sul sito di Radio 24 o scriveteci una mail a chiedimi se sono felice @radio24.it. Rosita Celentano e Angelo Vaira ogni domenica alle 12 su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Melog. Cronache meridiane. Signore, comunque. No, ma lei abbassi... Lei non si deve permettere di dettare le persone deve abbassare così. La voce. Lei parla prima con me. Sì. E dopo ne parliamo. Ma dato che lui era entrato, mi sono rivolto direttamente a lui. Lei abbassi la voce, allora, ragione. Allora, innanzitutto il signor Castagna. Sono io. Buono. Allora, signor Castagna. Sabono che sono incazzato più di te io, una parola. Una parola. Signor Castagna, malgrado tutto, lei ci ha divertito perché è sul set di Scherzi a Parte. Qua siamo meta televisione pura, si fanno gli scherzi di Scherzi a Parte dei programmi televisivi, quindi sì, come se ammazzasse il maiale due volte, si porta a casa il bottino a Scherzi a Parte. E nel programma in questo caso era Stranamore di Castagna. Ho qui in studio Barbara Carpi, ricordo che Barbara Cappi è un'autrice ventennale, ha attraversato quasi tutti i programmi televisivi, Rai e Mediaset, nemmeno li elenco perché sono quattro pagine, dovrei leggerli tutti. Immaginate tutto quello che avete visto, amato, detestato in televisione, c'è sempre stata dentro lei. Ha scritto anche un libro che di fanta realtà, mette dei casi, dice Posta per te, di cui è anche autrice, che come se fossero raccontati da una sarta, da una personaggio, diciamo, dietro le quinte della televisione, che in realtà è quella che avrebbe più da raccontare. Ecco, Alberto Castagna già dimenticato probabilmente le nuove generazioni. Ma spero di no. Ah, beh, dalle, sì, nuove, le nuove, sì, dalle sì. Nuove mio sì. Figlio 20 anni non sa chi sia Castagna. Purtroppo non sì. Sa chi sia Castagna. Castagna era un giornalista conduttore del TG2, aveva dei bei baffoni, dei begli occhi azzurri. Un giorno, metà anni 80 più o meno, lo vide Raffaella Carrà, se lo portò a fare i suoi programmi di varietà e divenne un uomo di varietà, impazzì improvvisamente e divenne Stranamore per gli italiani. Sì, io tra l'altro ho avuto la fortuna, proprio il mio battesimo televisivo fu con lui. Immagino di che tipo. Era molto marpione. Io avevo 20. No. Sì, dai, no, non dire che Castagna. Lui, non ci può fare. Marpionissimo, assolutamente. L'uomo che amava le donne. Figurati. Ma le donne amavano lui tantissimo, guardi, tutte le età. Ma lui infatti si trovò come il buco nella mela. Non vedevo per lui un futuro da giornalista del TG2, capito? Ma figurati. Da Latin Lover. Ma sì, gli piace, ma no, gli piaceva, era simpatico. C'aveva baffone che piaceva, era divertente. Ma guarda, è veramente il suo grande segreto, perché poi in realtà era anche molto generoso e carino anche con gli uomini, non è che non li guardasse o non ci parlasse, ci scherzava con tutti, era un uomo di una generosità e di una simpatia straripante. Quando mi chiesero, era il primo programma che mi chiesero di fare in prima serata, io avevo fatto solo fiction, delle piccole cose, ero giovanissima, e vidi questo, mi fecero vedere il format olandese, che non aveva lo studio, la porta. Questa fu un'invenzione successiva. Noi in Italia ancora siamo legati allo studio, al pubblico, al conduttore. Invece là c'è solo un piccolo pulmino che vagava in Olanda. Vagava da me, che mando la posta a te, e in qualche modo ti mando a dire ti voglio bene, torna con me. Poi il pulmino tornava a casa mia e mi diceva: guarda, dice di sì o dice di no. In Italia, che c'era assolutamente, no, il sacra liturgia, serviva un grande sacerdote. Serviva proprio. Lui, sacerdote fantastico. Questo pulmino l'abbiamo ereditato e tenuto. E abbiamo, tra l'altro, una persona che mi piace citare, che è Sabina Gregoretti, che non fa l'autore, ma fa tutto in televisione, lavora adesso con Maria De Filippi da molti anni, ebbe l'intuizione della porta, dove c'era una specie di, in qualche modo, no, tutte le volte c'è o non c'è, si apriva o non si apriva, e le persone stavano a vedere, non solo a sentire. Beh, era il momento di suspense. Era il momento di suspense, bravissimo, era proprio il film, no? C'è l'assassino, non c'è, e quando c'è non sempre c'era quello che ti aspettavi. Per noi autori era molto divertente, è anche variare. È il momento dello sfigato che si mette a piangere per quando si apre la porta e non viene la persona, e quindi gli è andata male. Ha fatto anche la figura terribile, andare in televisione a inginocchiarsi, a farsi tappetino, e nemmeno è venuta la persona. No, terribile, guarda. E se la gode qualcun altro, e questo era bravissimo Castagna. Lui era bravissimo, e noi soprattutto, io speravo che mi arrivasse ovviamente anche a me il pulmino a casa. In quel periodo ero stata sedotta, abbandonata da un ragazzo, e dicevo mi manderanno, c'è posta, l'amore arriverà anche, Stranamore arriverà anche da me. E invece niente, passarono. Beh, c'è posta edizioni, per te, edizioni. Diciamo, è un derivato di Stranamore, ci ha preso qualcosa. Sicuramente Maria era una fan di Stranamore, cioè è un mondo che le interessa. Poi l'ha, è sempre l'ha allargato dei non soltanto rapporti. Ai fatti d'amore, ma anche a qualsiasi vicenda. Ecco. E quindi decisamente anche che è molto più longevo anche quello. Sì, però diciamo l'idea sempre che in televisione ci sia una sorta di luogo sacro in cui ci può essere la mediazione per i problemi degli uomini. Il tema era questo, in fondo. Sì, ma in fondo perché no? Nel senso che non chiediamo a un amico, un'amica o allo psicologo di aiutarci, e qui è semplicemente il fatto che metti la faccia in televisione, non mi dicono ma non si vergognano. Io forse avrei pudore, non lo farei, ma per un retaggio culturale, mia madre ancora mi bacchetta perché io ho comprato casa con i soldi di Berlusconi, mi dice, perché è una che dice ah, ma dovevi fare un certo tipo di scelta, invece sei andata, hai fatto la TV popolare. Sì, beh, mica l'hai fatto in cambio di innominabili prestazioni, hai lavorato, scusa. Ho lavorato alacremente, però ho fatto dei successi al quale magari lei non è tanto orgogliosa, ma ognuno c'ha i propri guai. Beh, ma sarà contenta che la figlia non te la deve mantenere più lei, scusa. Assolutamente, anzi, adesso per esempio quando ha letto il mio primo e forse unico romanzo, era molto così sospettosa, e poi si è ritrovata emozionata e mi ha detto, a me, però allora forse... non sei così male. E allora per me è stato come dire, a 48 anni ho avuto la mia... Beh, terribile però che ancora devi contare su, diciamo, l'approvazione materna. Ma siamo cosa... italiani. Vabbè, ma è terribile. Sei proprio un personaggio da Maria De Filippi. Io piango come una pazza. Se vuoi piango anche adesso, ti racconto una delle ultime storie. Dice, posta per te che ho... io mi commuovo come una bambina. Beh, non potevi fare altro. È un termometro per me. I professori continuano a esaminare i ragazzi per non rischiare di perdere neppure un talento. Due piquet, tre chenet, due piquet, coupé jeté en tournant. Chi tra i candidati verrà promosso nella puntata di oggi? Sei promosso al prossimo step di luce. Purtroppo tu ti fermi qui e non vai avanti nella corsa al bar. Le ragazze sono state convocate in studio per verificare l'apprendimento veloce della coreografia. Allora ragazze, vi abbiamo già visto. Ecco, diciamo del tuo capo la grande invenzione è stato Amici, devo dire. Io me la ricordo, anche lì facevo 3-1-3-1, ma anche lì sanno stati, anni 90. Ancora nessuno sapeva che sarebbe diventata la moglie di Costanzo. Un'estate la mandò Costanzo a condurre Radio Anch'io, quindi stavano due studi accanto. Per farsi le ossa gli fece fare un po' di radio. E poi divenne Maria De Filippi, la vidi dopo qualche mese al centro di questa immagine reale ma fantastica, di questa sorta di essere etereo insieme a dei ragazzi che parlavano, dicevano i fatti loro, senza nessun... apparentemente non c'era traccia, non c'era niente, non c'era testo. Era bellissimo. Quella fu la vera invenzione però. Ammazza, io tra l'altro me lo guardavo da casa... parli di Amici generazionali, primissimo Amici. C'era quello, lei con dei ragazzi proprio, che parlavano. Quello fine. Era proprio incredibile, perché erano anni in cui non era incredibile quello che si vedeva in televisione. Poi lei, la sua compostezza, il suo modo così anglosassone, no? Quasi distaccato, che in qualche modo sembrava pure facesse paura, perché io mi ricordo le prime volte che lei mi ha contattato per provare a lavorare insieme. Ma quanti insieme. Anni dopo tu ci hai lavorato poi? Ah, io molti anni dopo. Lei tentò, quando ebbe l'idea di fare C'è posta per te, quindi aveva proprio l'embrione in testa, mi convocò in una stanza d'albergo a mezzanotte dopo i Telegatti a Milano, io la raggiunsi, c'era appunto questa signora che si chiama Maria De Filippi, si presentò, non aveva bisogno di presentarsi, ma era molto, lei molto... educata e anche molto umile come persona, oltre che timida, e mi disse mi è venuto in mente questa. Pensa, la chiamano Maria la Sanguinaria. Solo perché è una che mantiene e contiene tutte le emozioni che prova, e quindi sembra una capace di uccidere, invece è capace di trattenersi e di non fare appunto di sé poi quello che potrebbero fare molti conduttori in quei casi. È l'unica che può condurre certi programmi, parliamoci, certo, chiaro, sì. Perché non si lascia andare, ecco, io non potrei. Non fa le faccine, non fa signore e signori, non fa niente, non ringrazia il pubblico. Certe cose puoi farle solo se c'è l'aria che te ne sbatte le palle, se no non fai parte, diventi parte dello spettacolo. No, ma poi lei è autore dei suoi programmi, quindi è molto in questo, è molto lucida. Vabbè, allora, t'ha chiamato e tu cosa hai detto? Insomma, mi disse, vieni a fare questo programma, te lo racconto. Mi racconta questa cosa della busta, e io dissi, una busta con un monitor dentro. Conte, io arrivavo da Castagna, caldissimo, napoletano, che tocca la gente, vedevo questa, appunto così, no, algida. Si è spaventata. E le dissi, sbagliando completamente, le dissi, no, guarda, non credo che questo programma avrà successo. Quanti anni dura? Era gennaio 2000 quando è andato in onda. Già, okay. 16 anni. Non avrà successo, le dissi. Tu fai paura alla gente, fai paura anche a me. E io non ci tengo proprio, grazie, arrivederci, è stato un piacere. E uscì dalla stanza anche un po' sculettando, perché ero veramente una stupida ragazzina. Lei non solo lo fece, andò come andò, e mi richiamò di tanto in tanto dicendo, ok, adesso puoi tornare, per favore, puoi venire a fare con me questo programma. E finalmente, da 4 edizioni, ho detto sì, e mi ha appassionato da morire. E adesso ti piace, ti sei convertita? Molto, molto, molto, molto, molto. Senti, altro episodio. Te, siete transgenerazionali. Voi peccate i ragazzini e gli date l'illusione e la gioia di diventare dei grandi artisti. Qualcuno ci riesce pure, perché ne ha piazzati parecchi alla faccia di quelli che dicevano che poi era una cosa farlocca. Vi beccate la mezza età in tutte le gambe possibili, dagli innamorati alle mamme, fidanzati e via dicendo. Vi beccate anche i vecchietti. Ma non è mai esistito un format così multitask per ogni età? Una specie di canale, sì. Potrebbe essere solo Maria De Filippi dalla mattina alla sera. Ma sai qual è, credo, il vero segreto suo? Che lei parla molto poco in onda, molto poco. E quindi non ti rendi conto che sono programmi suoi, da quanto lei sta sempre, no? Un passo indietro se non 10. Eppure tutto avanza come nel migliore delle previsioni. C'è tanto lavoro dietro, ma davanti alle telecamere lei in questo si risparmia e nessuno sente che c'è un abuso di potere. Con me so che era arrabbiatissimo, una volta mi cercava e voleva menare. Non so perché prendevo in giro i suoi programmi. Io per anni ho fatto il critico, naturalmente era una materia per me fantastica, fino a Dentiere Bollenti, che era il programma dei vecchietti, faceva ridere, vecchietti attrezzatissimi, capito? Semmai gli pigliava il coccolone da un momento all'altro, però ne apprezzo l'aspetto trasgressivo. A tra poco, ci fermiamo un istante, aspetta, ferma. Melog, cronache meridiane. Uno dei problemi reali che io avverto quando provo ad avvicinarmi ad una donna è che mi chiedono sempre di andare a ballare, però ogni volta che io vado a ballare con una donna, poi non succede niente dopo, non so se... Vedi, devi capire una cosa, quando si tratta del ballo, le donne fanno un rapporto diretto tra il modo in cui un uomo balla e le sue capacità sessuali. Quindi una donna ti guarda ballare e da questo deciderà come sei anche in altre circostanze, cioè fa un rapporto diretto tra come balli e come fai l'amore. Quindi devi stare molto attento quando balli. Questa era un'edizione Sanremo condotta da Bonolis. Tu, Barbara, eri autrice anche di questa. Sì, che sì, anno sì. Era? 2005 e 2009, sono state le due edizioni che abbiamo fatto insieme. Quindi intervistava Will Smith, cioè fa un po' ridere perché queste interviste fatte a Sanremo, viene il grande ospite internazionale, sì, se il conduttore fa le domande già pronte così, non sono grandi interviste, diciamo, siete voi autori a fare le interviste, non lui. Ma noi all'epoca avevamo studiato con Paolo un modo diverso, nel senso che partivano con delle interviste e finivano sempre in schecettoni, in simpatiche gag. Lui cambia, però hanno le sue facce, prende in giro se stesso, lui, che fa la finta intervista. Beh sì, assolutamente, per esempio io mi ricordo di quell'edizione, c'era Hugh Grant che venne ed era assolutamente... di un'antipatia rara e fece le prove con noi, aveva ricevuto già tutto il cartaceo di quello che doveva essere il momento, invece ci disprezzò talmente tanto alle prove che disse: io non farò niente di tutto questo, guarderò Mr. Bonolis con la mia faccia e questo vi deve bastare. E Bonolis fece botta e risposta, cioè tutto quello, lo sketch era stato, aveva previsto no? che ci fosse e fosse detto dalle due persone, fece da solo, fece le domande e le risposte, si fece le come domande e risposte, come, esattamente come Marzullo, con Hugh Grant immobile che lo guardava con pena, ed è stata una delle cose più esilaranti della televisione che io ricorderò, dove appunto il mattatore viene fuori. A quel punto si doveva salvare, portare a casa la pelle, l'ha fatto Abramovic, ci ha fatto la sua fortuna stando zitta a guardare le persone, quindi va bene. Ricordo che Barbara Cappi è un'autrice televisiva pluriennale, ha scritto La lettera che non ti ho mai scritto, editore Mondadori, che è un po' un romanzo tratto alle sue esperienze, sono dei casi eclatanti, dice, posta per te, visti da una sarta che sta dietro le quinte. Poi ve lo leggete e capirete quanto c'è suspense. Andiamo avanti. Vogliamo parlare del caso Portento? Tricheballacche? Da lì, da dove se n'è uscito urlante la settimana scorsa, da lì facciamolo rientrare. Signori, l'Orlando Furioso, Orlando Portento! Orlando già si comporta come una star. Buonasera. No, benvenuto. No. Mi saluta? Vuole salutare? No, Portento era un personaggio, veniva sempre dei Tricheballacche, ebbe una sua effimera gloria televisiva nella sua reattività, ma noi parliamo in realtà della fattoria per un altro punto di vista, perché è stato uno dei programmi di quest'altra autrice, Barbara Cappi. Tu quante fattorie hai fatto? Ma, la prima con la Daria Bignardi. Con Daria Bignardi? Sì, sì. Che adesso mi racconti, con la direttrice di Rai 3 quando faceva la fattoria. L'ultimo com'era? Programma che fece a Mediaset, se non sbaglio, poi passò alla 7. Ma lei, insomma, guardava con molto sospetto tutto quello che era reality, compreso anche Il Grande Fratello. Sì, faceva schifo, però l'ha fatto. Sì, sì, però lo diceva abbastanza. Era sempre questo nasino arricciato. Sempre. Come quando una signora pesta la cacca con le scarpe, però quelle con il tacco, con la suola rossa. Sì, ecco, ma è un po' come se la pulisce, però guarda, in fondo è un po' come tanta gente che guarda la televisione che faccio io, che la guarda, non lo dice perché se ne vergogna, ecco, e invece secondo me vivono un po' meno bene di me. Ecco, però funzionano, i reality funzionano con queste presenze aliene. Il conduttore puzza sotto il naso funziona nel reality, oppure è meglio la D'Urso che ci si butta dentro fino alle ginocchia e ci galleggia, ci sguazza. Ma sai, poi non so che cosa funzioni. In realtà tu a casa magari segui perché nel cast c'è qualcuno o perché c'è un conduttore che ti piace, cioè dipende, ognuno pesca dove vuole, no? E quindi è molto soggettivo il motivo per il quale poi un reality può avere successo. Io, per esempio, sono una appassionata, non ho mai fatto di Isola dei Famosi e quest'anno che torna l'avventura. Non l'hai mai fatta te? No, mi piace da pazzi, da sempre. Però reali ne hai fatti. Sì, sì, sì, ne ho fatti, ma quello dell'Isola mi è sempre garbato tanto, però poi non coincidevano le cose quando poi magari me l'avevano proposto. Mi è capitato un anno che me l'avevano La fattoria proposto. Com'era? Erano sempre buttati in un posto a far cose zozze? In un posto a far cose primordiali, insomma, dal mungere a pulire lo sterco e che fa sempre ridere vedere dei VIP alle prese una vita greca. Per quello uno guarda i reality. È la cattiveria. Certo, vedere persone famose. La vendetta. Sì, però diciamo faccia parte, secondo me, dei reality di tipo resumativo. Era un pochino la formaldeide di gente che era un momento appannata, quindi deve passare questa ordalia, fare cose oscene per ritornare in auge. Una penitenza. Si è sempre più aumentata però questa cosa, vero? Sì. Sempre stata più forte. Sì. E sempre meno VIP che ci vanno, però. Sì, infatti, tra l'altro, è sempre, so che stanno avendo delle difficoltà, per esempio, nel comporre il nuovo Grande Fratello VIP, perché lì è tosta, no? Ma qual è il problema? Dentro. Poi stiamo per chiudere. Sono finiti i VIP? Ma no, ma ce ne sono stati non troppi. Non finiranno mai, ma no, sono finiti forse alcuni grandi miti, e quelli sì, o comunque quelli non si sporcano, tra virgolette, ma poi insomma il dio denaro li fa andare dovunque. Ma quelli forse sono già morti, continueranno a fare televisione comunque, prima che se ne accorga qualcuno. Sì. Questo perché, è il fatto. E infatti speriamo di non finire mai nemmeno noi. Beh, il tuo pane, la tua vita, ci credo. Grazie a Dio. Senti, ma secondo te la televisione ha un suo futuro? La televisione generalista così, quanto durerà? Io ho sempre profetizzato che sarebbe finita. In realtà ancora vedo che c'è. Guarda, anch'io penso che abbiamo gli anni contati. Vabbè, tu hai dato, dai. Ma dopo va bene, 20 anni, nel senso che ho quasi 50 anni. Puoi andare anche in pensione. Dopo 30 anni che faccio questo lavoro, per cui posso 30? Andare. È vero, sì, ho cominciato a 18, quindi ormai ne ho 48 e quindi io posso tranquillamente dire gli ultimi ci sarò. Dopo vedremo che cosa succederà, ma sono molto curiosa. E poi c'è sempre il cinema e le letture. Sì, poi certo, finirà quindi anche Barbara Cazzi sulla sua terrazza con il suo vino millesimato, con i suoi amici con cui parlare di cose meravigliose, ignorando, rinnegando il suo passato di 30 anni in televisione. Alla prossima, ciao. Ciao.